Cosa rappresenta per te scrivere canzoni e se ti ispira a qualche cantautore in particolare? Diciamo che scrivere canzoni in realtà è un po' la cartina tornasole di quello che mi succede, cioè non è che di solito mi soffermo a scrivere dei massimi sistemi, preferisco lasciarlo a Björk, diciamo che scrivo di quello che mi capita bene o male, poi capita anche di scrivere di cose che non mi appartengono, ma se così è, magari ad esempio se devo scrivere per qualcun altro mi faccio spiegare delle situazioni, degli stati d'animo dalle persone con cui mi rapporto e per cui magari devo scrivere, ecco, che è capitato in passato. E diciamo quindi che sì, per me scrivere rappresenta proprio una forma di espressione, ecco, quella, non dico principale perché altrimenti dovrei essere tipo un mutista selettivo, non so, però è una forma senz'altro importante, ecco, nella mia quotidianità. Ti faccio la solita domanda: ti piace più scrivere per gli altri o testi che hai vissuto ma che scrivi poi per te, per fare dei singoli o l'album, insomma? Secondo me è più, come dire, più catartico e più liberatorio scrivere per se stessi, nel senso che obiettivamente quando scrivo con un'altra persona ci sono tante dinamiche in atto, però prima ancora di stare bene con gli altri o far stare bene gli altri, di stare bene con te stesso. E quindi, dato che per me scrivere è molto terapeutico, direi che preferisco molto di più scrivere per me stessa. Certo, è chiaro. Tra l'altro tu suoni e hai studiato pianoforte, e quindi volevamo sapere se questo ti aiuta, insomma, nella scrittura anche dei brani, accompagnarti col piano. Con tutta la franchezza possibile, in verità voglio dire che io a suonare il pianoforte faccio abbastanza l'ho studiato, ma la realtà è che comunque ho studiato pianoforte complementare, quindi so fare quello che mi serve per scrivere i brani. Okay. E di conseguenza al minimo indispensabile per fare le produzioni, però ovviamente il mio lavoro va sempre accompagnato da un lavoro più grande che poi avviene in un secondo momento, che è quello della produzione, ecco. Certo. Però posso dire che senz'altro, a parte che prima o poi dovrò pure riprendere a studiare pianoforte, perché insomma è una diretta conseguenza di quello che sto facendo. Certo. Però posso dirti che senz'altro scrivere al pianoforte, cioè scrivere, saper suonare al pianoforte è una cosa essenziale in questo momento. Poi per quanto riguarda il fatto di non saperlo suonare bene, la verità è che quando devi esprimere dei concetti escono fuori con tutta la semplicità del caso, tante volte senza troppi fronzoli. Poi se un giorno mi trasformo in Björk e faccio le cosine particolari, magari me lo devo studiare ancora meglio, mettiamola così. Oggi ce l'ho su con Björk. No, infatti volevo chiederti, come mai Björk? Cioè, ti piace? È una delle tue basi a livello proprio di musica? Tu ascolti molto Björk o oggi? No. È... Ok, perfetto, perfetto. No, cioè, allora, di Björk sinceramente la ascolto sporadicamente, anche perché dopo 20 minuti tendo ad addormentarmi e il suo brano che preferisco è Hyper Ballad, in ogni caso, e avrei voluto ne avesse fatti di simili. Va bene, ok, perfetto. No, non mi ispiro per niente a Björk. Okay, facendo un passo indietro, il tuo primo demo è stato autoprodotto ed è quasi totalmente in inglese, quindi volevamo sapere cosa rappresenta per te scrivere in inglese, visto che poi arriveremo a parlare del tuo disco, che è interamente in italiano. Allora, possiamo dire che obiettivamente scrivere in inglese è una, tra virgolette, storia vecchia, ma non significa che poi non riaccadrà. Intendo dire che questo album che è uscito, cos'è, 2014, My Blue Side, era un album che alla fine ho scritto per me stesso, per raccontare a me stesso un po' le mie pene di quel periodo, possiamo dire, no? Ok. Anche perché eri giovanissimo, insomma, quando... Sì, avevo 19 anni, oddio, adesso ne ho 23. Però comunque, sai, gli acciacchi, pian piano, i sentieri... Certo. Sì, ma è già, insomma, io mi sento siete vecchio. Coetanei, ecco, esattamente, capite, no? Siamo un po' già vecchi dentro. Esattamente, sì. La sento molto questa cosa. Cioè, no, nel senso che io sono vecchio dentro, non sto dando dei vecchi vecchi. C'è da dire che... c'è da dire che all'epoca ascoltavo molto molto molto pop, e poi dopo che è uscito ma tipo pop inglese, americano, insomma, dopo che è uscito My Blue Side ho iniziato ad ascoltare molto più musica cantautoriale, indipendente, così, e poi lì mi sono riavvicinato a un genere musicale anche più italiano, quindi da lì entro tutto il cantautorato, mi facevo le giornate ad ascoltare Bruno, Maria Antonina, eccetera. Bellissimo, c'è da dire la depressione anche, perché lo faccio anch'io, eh. Ed esatto. È proprio uno stato emotivo, cioè proprio catartico. Sì. Ma poi io tra l'altro impazzisco ancora per il primo album di Maria Antonietta, quello proprio omonimo, che sì, è tipo un tripudio di incazzatura, e è bellissimo davvero. E però c'è da dire che appunto fino ad allora io ascoltavo musica in inglese, quindi anche per quello l'album è in inglese, quello lì. Poi adesso come adesso io non scrivo più spesso in inglese, nel senso che se devo scrivere per me non lo faccio. Mi è successo di farlo per il semplice fatto che magari a volte mi sono arrivate delle richieste, tra virgolette, no, non dall'Italia, per quanto poi non siano andate in porto, quindi mi sono trovato a scrivere in inglese per una richiesta ad altri, ecco. Ok. E arrivando poi al 2018, tu hai pubblicato Mattino, che è il tuo primo singolo, che anticipa il tuo album di debutto, appunto scritto in italiano. Cosa rappresenta per te Mattino? Ma allora, Mattino è un po' l'inizio di una presa di consapevolezza dal punto di vista musicale. Intendo dire che io l'avevo già fatto uscire molto tempo prima, perché praticamente dovevo fare un concerto dalle mie parti e non avevo fuori nulla di ciò a cui stavo lavorando. Allora ho detto, vabbè, a tempo perso facciamola uscire, e non era ancora prodotta come la si può sentire su YouTube dal canale di Bianca Dischi, sui miei canali in generale, ma era una versione iniziale con cui avevo lavorato con Plastica, che è questa mia amica appunto produttrice di musica elettronica, e avevamo coprodotto questa versione che poi Bianca Dischi ha sentito quando mi sono presentato a loro, e da lì io volevo partire già con un altro singolo, loro mi hanno consigliato di ripartire da Mattino, l'abbiamo sistemata e adesso insomma Mattino è ad oggi il brano più ascoltato, possiamo dire, che poi in verità rispetto all'album esce un po' dalla tematica, però proprio per questo è la canzone che va a introdurre, come dire, l'intero concetto dell'album, è una sorta di intro, ecco, pur okay, non chiamandosi intro. Ok, e poi arriviamo ad Albero, che è il tuo secondo singolo presentato in anteprima su Rolling Stone, quindi insomma direi un'ottima anteprima. Sì, quella è stata una cosa molto carina, e anche come singolo è un brano che poi molte persone mi hanno detto di aver capito di più quando hanno poi ascoltato l'album e hanno capito che Albero era un pezzo di puzzle all'interno dell'album e faceva parte della sua concettualità, e magari all'inizio non l'avevano capito troppo, mettiamola così. Ok. Però comunque sono contento, è un brano che ho poi, cioè l'ho scritto da solo, però poi dopo mi sono fatto dare una mano da un mio amico, che in arte si fa chiamare Cordio, che in pratica ha un po' sistemato gli accordi, li ha tolti dalla banalità, diciamo, e poi dopo invece la versione, come dire, la strumentale, la produzione che poi si può sentire nel brano, cioè ho lavorato da prima io e poi Roberto Macis, che è il produttore di tutto l'album. Sì, Albero diciamo che è la canzone con cui poi ci saluteremo, quindi sui 103.1 ce l'ascoltiamo. Va benissimo. Vabbè, abbiamo parlato di Mattino, abbiamo parlato di Albero, arriviamo all'album che è Bosco. Abbiamo detto che hai lavorato insieme al tuo producer Roberto Macis, e diciamo, com'è arrivare e fare un album intero in italiano? Insomma, sono 11 brani, quindi c'è anche un bel lavoro dietro, giusto? A livello anche di tempo, immagino. Sì, allora, c'è da considerare che il primo brano, per dire, che era La danza dei passi falsi, è stato scritto nel 2016, ok? E da lì poi ne ho scritto davvero, penso, una quarantina, sessantina di brani da lì ad ora, e però quelli che davvero c'entravano con ciò che volevo dire erano pochi, e sono quelli che poi si ritrovano in... Possiamo dire che, diciamo, allora, aiuto, mi sto interrompendo, ok. Vai tranquillo. Possiamo dire che c'è stata una produzione che è cambiata più volte, nel senso che come in tutti i lavori di questo tipo c'è una ricerca di suono, da prima i brani nascono tutti a pianoforte e voce, poi per un breve periodo di un annetto ho avuto una band con cui suonavo, però non ero contentissimo del risultato, e siamo andati in un'altra direzione, ho iniziato a lavorare da solo, poi l'altra produttrice dell'album, appunto Plastica, mi ha, perché poi ha collaborato a più brani, mi ha spinto in una direzione più elettronica, intendo dire che proprio mi hanno insegnato a usare Logic. Abbiamo avuto delle sessioni di produzione insieme. Questa ragazza ha prodotto La danza dei passi falsi, Mood, Friendzone, Bosco, che ovviamente poi non l'ha prodotta da sola, ci sono stato io, c'è stato Roberto a chiudere tutto quanto. E quindi appunto nel corso degli anni sono successe più cose che hanno portato alla fine a questa produzione, ecco. Però c'è da dire che poi da quando ho iniziato a lavorare tra virgolette da solo, dalla musica elettronica in su, ho avuto le idee molto più chiare su quello che volevo fare di questo album, ecco. Ok, diciamo appunto che il concept del disco è legato alla post-adolescenza, e ho letto una frase tua che mi è piaciuta molto, dove dici che è una fase di vita che tocca a tutti e del quale non si parla abbastanza, visto che insomma noi in realtà ormai siamo usciti dall'adolescenza, quindi effettivamente siamo nella fase della post-adolescenza. Sì, sì, sì, che non, nel senso, qualcuno ti parla addirittura di età adulta e vabbè, cioè ti sta, per carità, però dall'altro lato anche... quei ragazzi, le ragazze, le persone che insomma vogliono fare gli adulti, gli arrivati, magari alla mia età, alla vostra età, poi tante volte hanno delle proprie insicurezze che sono quelle della precarietà di tutti i giorni, no? Certo, dalla precarietà affettiva, all'esame che non riesci a dare, eccetera. Sì. Magari è poi un ruolo anche che ti crei tu per dimostrare che hai passato l'adolescenza, ma in realtà secondo me bisogna viverla nei momenti giusti, no? Quindi mi piace anche l'idea di post-adolescenza, perché non è mai finita finché... Esattamente. In verità, secondo me, poi magari ci farò un album sull'età adulta, chi lo sa. A questo punto... Oddio. Dato che abbiamo l'album adolescenziale, che è My Blue Side, direi che c'è anche quello post, ci sarà anche là. Vabbè, è tutto è molto coerente. Dopo diventa... Ma arriviamo alla cosa più importante, perché tu stai per arrivare a Bologna, perché suonerai per la prima volta dal vivo Bosco in questo speciale showcase di presentazione, che sarà intimo ed emozionale, l'11 aprile a Granata Studio. Immagino che tu sia già carichissimo. Sì, sai quando in verità devi mischiare tante cose insieme, quando le giornate sono fatte proprio di impegni incredibili, eccetera, e dovresti concederti tipo 20 minuti per dire cazzo quanto sono felice, scusa la braccia. Comunque, no, è giusto. Esatto, cioè in verità in questi giorni sono contentissimo, stanno succedendo delle cose bellissime, non vengo a Bologna da almeno tipo 3 anni, poi vabbè non ci stavo molto perché al mattino dopo devo tornare su presto, devo tornare dalle mie parti abbastanza presto. Però almeno però ti vivi un po', respiri l'aria bolognese. Esatto.